Già lo stringo, già l'abbraccio, con la forza del mio braccio, nuovo antenno l'alzo da terra, si zitto non si rende, perché Marte lo difende, Marte ancora io sfido a guerra. E se vinto non si rende, perché Marte lo difende, Marte ancora io sfido a guerra, Marte ancora io sfido a guerra. Perché Marte lo difende, Marte con il fido